Ricordo perfettamente quanto gli esami di terza media in quel lontano 1979 incombessero, minacciosi, sin dal primo giorno di scuola. Non bastavano professori e genitori con le loro raccomandazioni. Anche la lavagna ti guardava con un fare sinistro, a ricordarti che la pacchia era finita e il tempo dei giudizi stava per raggiungerti. In questo stato generale appare nitida una leggendaria figura che rispondeva al nome di Irini Teocaridis. Luogo di nascita, Atene. Professione, insegnante di musica. Segni particolari, giradischi portatile, una valigetta azzurrina con la quale arrivava puntualmente in classe. La sua ora seguiva un rituale stabilito. In autunno, cori classici, come il Nabucco alla Traviata. A dicembre si impugnava il flauto dolce, liberando in aula terrificanti suoni acuti. Con l'inizio della primavera, però, le origini elleniche della professoressa emergevano in tutta la loro tipicità. Entrata in aula, ci invitava a spostare tutti i tavoli e le sedie ai margini per lasciare un grande spazio libero al centro. Sapevamo cosa ci attendeva. Il Sirtaki. Non si può dire che non fosse divertente, tutto sommato, ma la lezione di musica purtroppo veniva dopo la pausa dell'intervallo. Questo significava che i miei compagni di sesso maschile, alti in statura ma ancora bambini nella scatola cranica, vedevano il periodo di pausa come unico pretesto per correre, colpirsi e inventarsi giochi cruenti di lotta calcistico-romana. Quando rientravano in classe non odoravano proprio di bucato steso al sole, ma un doppio battito di mani e si dava il via alle danze greche. Con orrore percepivo che sotto la maglietta sulla quale dovevo appoggiare la mia mano vi era una pelle sudata e scivolosa. In quei momenti odiavo la professoressa Teocaridis. Quel momento era temutissimo non solo da me ma anche dalle mie compagne di classe, perché comunque appunto ci obbligava ad abbracciarci con i compagni con i quali non c'era tutta questa amicizia e questa confidenza. La cosa incredibile è che negli anni passati, durante l'estate, mi sono trovata nella meravigliosa Grecia e ogni volta che sentivo partire queste note la mia mente andava inevitabilmente a quei momenti della classe, dello spostamento dei banchi. Un giorno Mariuccia, la bidella del piano, ci comunicò che la professoressa Teocaridis si era fratturata il femore cadendo e pertanto sarebbe arrivato un supplente fino al termine dell'anno scolastico. Già molti si immaginavano impegnati in guerre di battaglia navale e improvvisate porte di calcio con gli zaini. Perfetto, in classe